posizionato nel letto. Oh, via. Adesso spengo la... Carie! Eia, qua solo. Eia, eia. Non so che sei qua. Che va fa vita. No, siccome ho messo un annuncio sul gruppo, no? Stavo cercando un pannello di un televisore. Come si dice? Mi hanno risposto di cercare su eBay, ma se l'ho messo lì un motivo, cioè su eBay, caffè su eBay c'è più di 100 euro, 120, un pannello LCD, cazzo di un televisore vecchio. Ti conviene a comprare il televisore allora? Il televisore, vabbè, 22 c'è una striscia, sì, ma funziona, si vede bene, non, diciamo che non dà fastidio, dai. Solo che se lo procuro è meglio che lo cambio, del 22, della Samsung, poi c'è l'altro LG, 37 pollici. Anche io c'ho il LG, io c'ho tutti e due LG, quello grande, quello della sala e quello di cucina, tutti e due LG sono. La legge è quella che fa i petti per la Sony, per tutti gli altri televisori, lo sai. I petti di codice tutte le leggi. Ah, anche la Samsung. Eia, mi sa di sì. A quanto mi ha detto, quando io l'ho comprato, il venditore mi ha detto, guardi, io le consiglio le leggi perché tanto è quello che i petti gli dà, le leggi fa i petti dei televisori e poi distribuisce in varie case. Ah, ho capito. Poi me ne hanno regalato uno a 55, ma purtroppo è un casino aprirlo quello lì, perché tutto è incasso. E infatti mi sono recuperato le schede, nuovo, un anno di vita, della Samsung. Smart, tutto, un gioiello oltre, ma bello veramente, un bel grande. L'ho fatto a pezzi, sono recuperato le schede, i LED. Cosa te ne va? Ma hai messo anche il televisore, mi uso i LED, per riparare la schede, le schede sono nuove, nuove, un anno di vita, cosa vuoi che abbiamo lavorato? Niente. E come mai, cosa ci aveva? Il pannello danneggiato. E non si poteva sostituire. 300 euro. Andare. E comunque adesso i televisori fra poco hanno tutti bisogno del decoder. Per saperlo sai cosa devi fare? Devi mettere o 100, o canale 100 o canale 200, ti dice se c'è bisogno del decoder o no. Se ti scrive nessun segnale vuol dire che ci vuole il decoder. Non uso bio, però l'hai sentito tu. Informato sono, anche a me me l'hanno detto, non è che... ho provato da me scrive praticamente nessun segnale tutti e due. Invece da Natalino gli risulta che vanno bene senza decoder. Allora, canale 100? Oppure 200, è la stessa cosa. Se ti scrive nessun segnale ci vuole il decoder. Se ti mette un'altra scritta vuol dire che il decoder ce l'ha incorporato. Però c'è una fregatura, cazzo. C'è uno con un televisore. Io c'ho un Panasonic che è nuovo, schermo piatto. Cioè, ma nuovo mi, già, nuovo. Tu puoi essere usando un telecomando sempre originale, un po' più vecchiotto. E poi c'è un telecomando suo che è nuovo. Ma lo schifo, cazzo. Lo so, lo fanno per fare i soldi, è stata difesa. Cazzo, prima il televisore era sempre quello, è stato per anni e anni e anni, sempre così. Poi hanno fatto il digitale, andava bene così, ma hanno fatto l'HD, oi! Già viene già arrivato in bocca di trulli. Tu va a fare di là. Adesso che bisogno c'era? Si vedeva bene col decoder, col digitale terrestre si vedeva benissimo, cazzo. Cosa devono fare? Altre cose. Hai fatto quello che dico io. Gianvaldo, tutte le frequenze, sai mio padre cosa diceva? No papà, quel telecomando non va più bene, ci vuole quello del decoder, no? E perché lo devo cambiare se va bene quello? Ho sempre usato quello, cazzo si cazzava, perché diceva, sono tutti soldi sprecati, se va bene quello perché lo devi cambiare, non riusciva a fargli capire cazzo che aveva cambiato. Perché era abituato, poverino, Dice, va bene quello, cosa lo devi cambiare a fare? È uno schifo, già siamo perdere là. A quanto pare, ogni tanto cambiano di frequenza, perché quella di fronte l'aveva già fatta, si studiava dei canali. Adesso ieri di nuovo non si vedeva più nulla. Qua tutto a posto, a casa tutto a posto. Anche a casa. Ho avuto problemi solo con le leggi che ci cucina, l'ho dovuto fare 4-5 volte, no? Beh, mi facevo tutta la ricerca dei canali e non trovavo anche nel canale 5, nella rete 4 e in Italia 1. E poi alla fine, dopo che l'ho fatto 4-5 volte, alla fine l'ha trovata. Allora, quando non lo fa, lo devi mettere in DTV. E poi dipende da... Per esempio, io l'ho fatto in un televisore, l'ho messo alla... se non mi ricordo. Comunque Italia non c'era, era un Samsung questo qua. Perché c'era DTV, digitale e analogico. Io ho messo digitale. E poi l'ho messo in, adesso mi ricordo, un paese, comunque all'estero. No, io l'ho fatto così, in italiano, e ha funzionato. Dopo 4-5 volte che ho fatto la ricerca dei canali, mi stava avvenendo già l'Alzheimer, cazzo. Marco mi ha detto, forse non è predisposto, non fa più, cioè te lo devi cambiare. Invece non era così, ha avuto difficoltà all'inizio, poi ce l'ha fatta. E vabbè, te senti che è risolto. Poi sul canale 55 c'è sempre Grande Fratello, l'hai visto? E le repliche? E di tutti, ci sono le repliche di tutti quanti i programmi. Se ti dico di un programma, vai di tutti. Io mi sono guardato un bel po' di roba che non avevo visto, Anche più sì che vale, tutti quelli. Ehi, vabbè, già ce ne sono programmi a Puglia. Io da quelli di Mediaset non me ne esce nessuno, qualche volta quando Rai 1, quando ci sono quelli che vanno a cantare, che imitano i cantanti, eccetera, eccetera, e vado a guardare qui. Ieri sono stato sino a tardi guardando il Grande Fratello perché c'era Pago che stava facendo tutte le canzoni, stava facendo il trattenimento dentro la casa. Stava suonando un po' tutte le canzoni anche di altri artisti, capito? Di Grigori, così mi stava piacendo, dai. Ma è sardo quello? Pago di Cagliari e non si sente, che tu non accetto, ma perché non... Ha detto, non ci ho fatto caso io. Io sì, subito. Ha detto che, vedi, questo piccolo attrezzo serve per stare in compagnia, per rallegrarci, eccetera, eccetera. Ha preso la chitarra e ha cominciato a suonare. Ha fatto anche tutte le canzoni caraibiche. Quella lì ha fatto. È bravo anche suonando, eh. Ah, cos'è il cantatore? Sì, lui è un cantante. Non lo so se è anche autore, però lo cantante è cantante. Ma certe canzoni non li... Non andava bene certe canzoni. Non sai che di cantante c'è il suo tipo di canzone, no, che può fare. Lui su certe canzoni andava bene, su certe altre meno. Ho capito, vabbè. De Gregori, Battisti, tutte quelle li ha fatte tutte bene. Acqua e sale ha fatto. No, ma è... Ha rallegrato la serata, ha fatto i cantanti giganti, c'era chi ballava, chi cantava. Ma in effetti la verità è questa, che la chitarra porta alla socializzazione, perché tutti cantano, si mettono vicini. Io mi ricordo quando facevamo le feste in campagna di Pestalico, vicino al camino, ragazzi, tutti abbracciati, venti, chita che si usava in alta vela, e cantavamo, poi finito di cantare magari ci usciva anche qualcosa. Una ciuffata. E allora, poi bevevamo, ancora meglio. E i piridi no? Però lo sai cosa c'era di buono? Che noi quando bevevamo lì magari a volte qualche inciarinata c'è stata. Però dormivamo in campagna, poi non è che ci volevamo, capito? Dormivamo tutti gli altri, dormivamo e ci mettevamo vicino al cammino e cominciavamo a raccontare. Poi un giorno ci è venuto in mente, questo amico ha voluto fare una seduta spiritica, ragazzi, si è riso, la mamma di Antonio, di questo amico mio che era la padrona della campagna, se n'è scappata nella campagna, ragazzi, perché ha visto, hanno chiesto chi sei e ha scritto: sono lo spirito del generale Baduglio. Siccome la madre di questo amico mio era una maestra elementare e queste cose le sapeva quando era nato, e così, ha detto: dimmi che anno sei nato. E gli ha scritto la data, come ti ha visto, c'era il bicchiere che si muoveva da solo. Come ha visto lui, lì si è fuggita, ragazzi, abbiamo dovuto precipitare tutta la campagna, scioccata. Si ha messo un lenzuolo in testa e se ne è fuggita Maria Ucco. Uno spirito sembra. Ehi, già pezzata. No, non l'abbia mai, non l'ho toccata, perché non c'è nessuno che mi dà una mano. Ci vuole uno giù che guardi quando è dritta, ci sto io giù per gli altri che tiri non metto faccia nel nome. E io gli dico basta, quando l'hanno tirato bene dico basta, ma è un tardino, mi non è assai. Solo che ho visto che col vento un pochettino anche il palo si piega se non la tiri bene. È quello che c'è. Ciao Eugenio, buonasera. Buonasera a todos, buonasera. E allora, che c'è? Parla qua. Sempre pompando. Cosa? Sempre pompando con la radio stai, ho detto. E cioè? Sempre una tessie. Attaccate. Non è attaccato, non è olio lineare, ma voce di fissare. È sempre questa qua, no, non olio lineare, non lo faccio nulla. No, stai arrivando bene, scusa. Avanti. Luca per l'Eugenia, lo sì. No, negativo, non arriva qua. Figa, sono andato 9, no? Dall'8 al 9, va, 8, schiacciate e parlate il 9. E magari a casa arriva, ma qua no, io ho anche una piccola già. Quello c'è, non stavo pensando. Vabbè, comunque ti saluta Luca, dai. Sei a contraccambio, va. Io lo sento, però sento solo il bip, sento col portare, però sento solo il bip. Hai capito Luca, ha detto che sente solo il tuo bip e borbottare, dai, magari ti sbigliare tutto e borbottare. Vabbè, dai, adesso Luca quando si pone l'antenna a mano e chiudi lo vedi, come dici. Aspetta che ritirino l'antenna e la faccia con l'antenna lì. Tutto male che vada si mette il moto di quella mia che andava bene. Quella lì andava bene anche senza radiali. No, devi fare radiali, sai. Dile se vuoi la mia 30 euro che avevo, questa qua è cosa tuya. Luca, sentito l'affare? No. Se vuoi l'antenna di Eugenio, 30 euro la sta dando, quella Energy 50, 30 euro, perché se la deve cambiare. È copiato. Non soldi da spendere già. Vabbè, una parola, quella lì costa sulle 90 e qualche cosa. Ma se non la giurina, me ne buco la luce, non ne ho già. Se non è un altro copio, però... 30 euro una parola, perché Eugenio ce l'ha anche da poco, l'antenna. Si vuole comprare quella uguale alla mia, capito? Come mai? Vuol dire non c'ha resa? No, c'ha resa, che sta di Vanove qua, da Portontone, se tu basta scherzare. È come quella che c'ha Marco Condor, che c'ha Natalino, capito? E oggi ha detto che non c'ha soldi adesso, dai, per il momento non fa. Va bene. Tu lo sai cosa fai? Te la ordini, ti smonti quella lì, te la lasci smontata, quando trovi la cliente te la vedi. Tanto a te non ti serve di dirà. Prendi e te la compri direttamente, e vai un'antenna come ti si tocca. Sì, va così. Farò così. Ma intanto quella che rimarrà. Perché poi, sì, quella lì te la smonti, ti dà una pulita e poi te la vedi. Magari se c'è qualcuno anche a Portotorres che vuole rientrare, i figli di Giampaolo, magari se c'hanno l'apparecchiatura ancora, ma non so se i figli di Giampaolo c'hanno ancora l'apparecchiatura del padre. Sì, ma lì antenna in compagno non se ne può mettere. Come non se ne può mettere? Non se ne può mettere antenna in compagno, non c'è il posto per piazzarla. Poi l'ha messa Giuseppe, ha tolto una tegola, ha fatto il buco, l'ha fatta entrare da sotto, l'ha murata sotto e poi ha messo la tegola fitta sopra e ha fatto lui. Io ma bisogna essere quel codomino, ma poi in Giappone non ce l'avrebbe messa ma più, quel codomino non voleva la pizza. Non so, c'era la mamma di quel carabiniere che gli rompeva le balle sempre, già me l'aveva detto. Vabbè. Comunque dice, pensaci bene per quell'antenna, perché poi magari aumenta e la paghi di più. Sto riflettendo. Rifletti. Pompa bene, anche fuori va bene. Già lo so, tu stai usando quella? Sì, sì. Gli devo dare una drizzatina perché quando l'abbiamo piazzata è leggermente inclinata verso destra. Bisogna tirarla appena appena due tirate a sinistra. Ma non ci vuole nulla drizzarla, cosa ci vuole? È appena appena, io sono un mignolo. Ma quanto pesa? È leggerissima, 2,5 kg pesa, una cazzata, è leggera. Già, quindi pesa più la mia, dai, quella io adesso. Allora tu fatti il conto che noi l'abbiamo portata su piazzata, ma è andata solo Luca e l'ha messa dentro al palo, da solo lì sopra la cabina dell'ascensore, è salito e l'ha messa da solo dentro il palo. Allora mi interessava il peso, perché io mi dovrei allacciare al tubo maestro, perché io... è leggerissima, quello diciamo che flette col vento, ma non è che flette più di tanto, nemmeno come dicono, io l'ho vista flette ma non più di tanto. L'interessante è che il palo sia buono, poi il resto non conta. L'unica cosa che c'ha è che non c'ha praticamente le staffe per metterla di lato nel palo, non si incastra all'interno, al centro, quindi cosa succede? Che facendo così il peso lo dà da una parte, quindi se ci vuoi mettere qualche tirante come ho fatto io per reggere di più. No, io tirante non ne metto, io 4 metri di palo, e tirante non ne metto. Che palo è? È un palo, quasi posso dire, è un palo un po' più stretto di quello che è tirante. Ah? Interessante che sia forte come fa. Avanti. Infatti, se il palo è buono. Adesso vediamo se sta sistemando la là, Claudio, là, giusto così, ma non posso affrontare le spese già. Insomma, l'autocostruisco mi piano piano, la costruisco io. Ci provo, un calvetto, un coso, una canna da pesca, sai, ce l'ho in garage la canna da pesca. Ma ci vogliono di quelle, non ne hai di quelle più sicuramente, di quelle lunghe da 7 metri ci vogliono. Ma poi lo puoi fare anche esterno, il cavo lo puoi mettere anche esternamente, te lo metti dritto, te lo attacchi dalla punta, si laggiù e lo metti esternamente e poi lo nasci tutto qua attorno, sai? La canna serve solo per tenere il cavo dritto, boh, basta, non si mi basta. Non so già. Natalino c'ha tutto quanto l'interno adesso in campagna, già fatto, già pronto, ci vuole solo la canna e messo dentro, poi basta, tutto il resto è fatto. Infatti Natalino ci ha messo quella, non avrebbe manco disturbato con questa antenna, perché queste qui non disturbano che non ci hanno avviato. Ma ha risolto Natalino? Ma cosa, è andato anche l'altro giorno quella lì a lamentarsi, gliel'ha detto che lui è andato, no, lui è andato a informarsi, gli hanno detto che lui può modulare tranquillamente. E gli hanno detto di dirle a quelle persone prima di che intervengano loro di chiamare un tecnico e farsi cambiare l'antenna, se no se intervengono loro poi succede un casino, gli mettono la multa. Gli mettono la multa a chi? A quello del televisore, perché sicuramente ci avrà un amplificatore d'antenna e l'amplificatore del televisore non si può usare. Ah, no, come non si può usare l'amplificatore d'antenna del televisore? No, non si può usare, è fuori legge, è come se tu mettessi il lineare nel baracchino per ti serve. Ah, non lo sapevo, Io puntavo scritto con l'amplificatore, segnale anche di studi, capito? E ci sono dei studi attorno, ti amplifica anche qui. Ah, non lo sapevo, guarda me. È così oggi, è così. E quindi, vediamo che cosa ne esce fuori. Adesso dice che ci sono stati zitti, che l'altro giorno l'hanno vista e non hanno detto niente. Prima ogni volta lo vedeva, mi sta disturbando il televisore. Ma quanti sono questi qua? È una famiglia o sono più famiglie? Mi pare in tre sono. Tre famiglie, picca e picca. Tutti con l'antenna Sassa di Vecchio, con quelle antenne di Bratti, chi sono? Ah, quelle antenne le ho capito. E allora quelle che si usavano prima non hanno un'antenna unica, hanno delle antenne che dovrebbero cambiare ogni po' di anni. Adesso vorrei dire, quella che ce l'abbiamo sul tetto ce l'abbiamo 17 anni, perché da quando ho messo l'antenna io, che l'avevano piantata nuova, perché io disturbavo e avevano fatto un casino, non mi volevano far vedere l'antenna, allora abbiamo nominato un tecnico, è venuto, ha misurato i fatti miei, poi è salito su, ha visto che l'antenna del televisore era fradicia, come l'ha toccata deve imparare un pizzo, dice basta, adesso sto facendo un rapportino, io volevo mettergli un filtro anti-TVI alla sua antenna, no, la mia antenna non gli tocca niente, gli ho detto. No, ma perché per non disturbare, ma non gli metto nulla perché chi disturba, perché questa l'antenna, qua c'è la scatola del miscelatore tutta aperta, sta entrando acqua e cose, vedete che tutto arrugginoso. Ha fatto il rapportino, hanno cambiato l'antenna, non ha avuto più problemi. Ma hai messo sugli aggiunto per cambiare l'antenna, cioè per l'antenna centralizzata? Certo che li ho messi anche io, perché io faccio parte del condominio, non c'è problema, però il fatto è che vabbè, qualcuno è riuscito a la rotta lui per cambiarla, è uscita una cosa del genere, ma ormai di cui sia uscita una cosa del genere, ho chiamato il tecnico, ho detto scusi venga qua un attimino, chi l'ha rotta l'antenna? No, io l'ho toccata appena appena e ne è sceso un pezzo da lì. Allora accade a divulgo, si non sa di cosa giù. Sì, la gente secondo me. Stavo alludendo che io l'avevo fatta apposta per cambiare l'antenna di modo che disturbassi più da più. Sì, ho avuto un problema quando ho buttato il condominio, no? Da ieri. Non potevo modulare perché, ma ti parlo del 90, nel 90, 95, quando si modulava, noi modulavamo nel canale 12. Perché mi sentivano i citofoni e non volevano assolutamente, mi sentivano il citofono e qualcuno mi sentiva anche nel telefono, capito? Mi sentiva nel telefono e avevo un sacco di problemi, però il televisore non ho mai disturbato. Allora tu lo sai che se disturbi i citofoni e i telefoni non succede niente, non devi disturbare le reti RAI, basta, punto, e il televisore. Però dei citofoni e cose non dice nulla, non devi disturbare i televisori. Non devi disturbare niente, no, con il citofono, no, con il telefono di casa. Io andavo pure dal telefono di casa. No, Luca, non è così. Non è come dici, non devi disturbare i televisori, non i televisori. Il telefono non c'è, e puoi avere un cordless, mi dici che non sei mi danno nulla, se ti disturba io non ho cordo. No, io andavo dal telefono fisso. Ohia, quella lì è sfiga. Ah, vabbè, tu conta, su molti famiglie che siamo, in quella via disturbavo solo a una. E purtroppo c'aveva televisore vecchio, di quelli vecchi senza filtri, niente, un casino. Tu conta, mi avevano tagliato 3-4 volte il cavo. Ma allora sai cosa dicono? Prima di modulare tu, io non avevo nessun disturbo, adesso che stai modulando tu, mi disturba, come mai? È isso, Si fanno questi discorsi qua, perché io non so che mi dicassi. Perché io sono andato a forza di lettere col condominio, già ti credi che io mi sono carrello. Io col condominio ho avuto parti vecchi con lettere e cose, ce n'era una addirittura che aveva formato, voleva formare un comitato per farmi togliere l'antenna, infatti lungo quello di fronte che poi si è piccato. Ha fatto la fine che dobbiamo fare. Quello che si è piccato, ma un ragazzo? Sì, un ragazzo, era un uomo, è un ragazzo di 45-50 anni. No, allora non è quello che succede io. Si è impiccato in casa? Non è più. No, a scuola, lui era insegnante, si è messo una busta in testa, è andato in mano e si è impiccato. Ah, ma da poco? Lui non è più. No, adesso no, perché non c'è più. No, vabbè, ma dicono... Ma da poco già? No, non è da poco, è già un po' di anni, sarà 3 anni fa che è successo. Io gli ho detto vai a ammazzarti, anche perché praticamente mi ha detto stronzo, tu mi disturbi il telefono dalla finestra, e le dici fa raggiosa di Dio, e vai a ammazzarti raggiunto, ti sei ammazzato a lui. Come si dice, lei, come si dice già, gli hai... L'ha giù bindacciato. Oh, vai, c'ho proprio disturbi, non è più. No, non disturba questa antenna, questa qui non c'ha radiale, non è da disturbare. Sono i radiali che fanno disturbare i televisori. Ah, sono i radiali che fanno disturbare i televisori. Capo, perché quelli di radiali sono della massa, capito? È la massa che disturba i televisori. Secondo come è piazzata, se è più su della televisore non mi dovrebbe fare nulla, ma voi la piatti più su della vostra di antenna e disturba quelli di fronte che non vengono aiuta col palazzo tuo, capito? No, vabbè, io sono pubblico, non ho mai disturbato nessuno, anche perché disturbo per conto mio, quindi no, adesso con la fortuna. No, il mio problema sono le cose, le colonne, che mi sono ammazzetti, che mi sporca molto terrato perché si mettono sui radiali, un casino. Oh, yeah. Luca, lo sai che sono usciti i vicini di fuori, stanno già mangiando da su. Allora. Ehi, ci rivedi quanto sono carini. Aspetti qua. Ma già. Dimmi. Ma Luca, con cosa sto modulando? Portatile. No, con un'antenna di... con un radiale di manto, ma sta uscendo. Ma io vedo cosa c'è l'antenna. Se lo puoi uscire, aiuto. A casa sua ce l'ha l'antenna. E a casa della ragazza adesso. Giulio, disculpati. Luca, perché te l'ho mandato? In un'altra lontanera. Ma Claudio, non c'è. Poi in questi giorni non lo sto sentendo. Tu sei sempre modulente di le tue tre o si chiama RRQS, come si chiama? No, ero al telefono. Ma ti credermi, io quando c'è gente qua, sto qua. Poi vado lì se non c'è gente qua. Oggi mi sono fatto una bella chiacchierata su 45. E fate le chiacchierate su 45, quello ti dici che è già nessuno. Su 45? Si possono usare solo 40 canali. E oggi ce l'hai il mio numero di telefono? Il tuo numero di telefono? No. No. Perché? No, così, se no mi avresti chiamato, ti spiegavo qualcosa. Quello sta dindolando, già. Ah? Quello sta dindolando, Ehi, quello che c'è sull'altalena. Cavolo, già grande è diventato. Tutti e tre, adesso stanno già cominciando a becchettare la terra. Cavolo. Attenzione, sono 10. Avanti Giuseppe, buonasera. Buonasera a voi, datemi un controllo per favore. Buonasera Giuseppe. Ciao Giuseppe, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da me poi da 5 a 7 è modulato. Non so se tu mi ascolti a me, sì? Io ti ascolto anch'io 5, però la radio è buona. 9:20 qua Giuseppe. A casa sì? Giuseppe, a casa. Va benissimo Giuseppe, ultimo. 9:20, cosa hai fatto? Allora, l'ho spostata e adesso ce l'ho qui vicino alla finestra, però sempre sono sceso come stazionario, adesso sono due modulate. Giuseppe, aspetta Giuseppe. Giuseppe, ma quell'antenna che c'è a Sacro Cuore non si può smontare? Sì, se qualcuno sale avvisa quello dell'ultimo piano, se vi fa salire, perché c'è da smontare le tegole per salire. Ah, ecco, è nuova quell'antenna, no? Mi sa gira Giuseppe. Mi gira, ci stavo pensando. Bisogna vedere se mi fa salire però. E infatti. Vabbè, pazienza. È pericoloso che se ne cade fa più danno poi. E infatti. Però se ti fa salire per me non ci sono problemi, figurati. Ma tu lo conosci? Sì, io sono stato di Chicchia. Vabbè, ma sei fatto travaganti, allora lo posso pure lo travaganti. Sì, ma basta dirglielo, o devo salire per smontare l'antenna, sono un tecnico, devo smontare l'antenna, ti fai aprire la bottola. E adesso mi organizzo con Luca, vediamo un po' se mi dà una mano lui, guarda me la smonto. No, io non ci vengo perché è un imbecille. Quello dell'ultimo piano. Sì, quello dell'ultimo piano. No, magari con te, magari ti prende simpatia e non c'è problema. Gianni. Per piazzarla lei ha fatto un basso. Spera che c'è Eugenio che sta chiamando lui. Avanti. No, non lo sapevo se mi sente. Come si chiama quello che è entrato adesso? Che si chiama? Non lo ricordo più. Giuseppe è tornato. Giuseppe, lo senti Eugenio? Sì, lo sento basso, Santiago 1 e Radio 1. Addirittura. Andate, dai, va bene. Giuseppe, mettiti l'antenna come l'ho messa io, che non c'è radiale ed è una bomba. Forse l'hai calpestato già. A chi è Giuseppe? Giuseppe, ha detto Gianni di metterti l'antenna come la sua, che non ha radiale e va benissimo, è leggerissima. Lo so, però con il discorso di Lella che non vuole antenne sopra il tetto ed è un casino, per adesso già va bene così. Ah, vabbè, me l'avevi detto, me l'ho dimenticato. Se no tocca fare box. Infatti, ma ti ho messo di palle, però adesso piano piano bisogna prendere le cose piano piano. tu accarezzala e coccolala, vedrai che poi cambierai. Sì, un colpo di palanchino. che noi sono i dolci, volo coso, volo bene il bocco. ecco di quelli buoni, meglio. Poi, aia. E di chi sono Simbigia, e allora? Oh, se ti dico una cosa, lui, io ho ancora quello tuo, quindi. Cioè, quello tuo, quello che mi avevi dato tu. Ecco cosa ti avevo dato io? Il Midland, non ti ricordi? Il Midland te l'ho dato io. Ibu, ora si lamenta più Giuseppe. Perdonami, ma anche la mia età avanza, io ho un po' di Alzheimer. Me ne ricordo io, non te ne ricordi tu, gara. L'avevo messo nel camion. Ah, Midland, che modello è, bu? Guarda, il 48 plus multi. Ibu, ora si lamenta. Non me lo ricordo, Giuseppe, sono sincero, bu. Questo l'ho piazzato nel camper, al posto suo, la sua tappa e vestito. No, non mi ricordo, Giuseppe. Sì, quanti anni fa te l'ho trovato? 20 anni fa. Buoni. Picchia, se la mettiamo da 20 anni fa, va. Vabbè, guarda, se senti qualcuno che sta cercando qualche apparecchio, c'ho un mobi come MB40 con 200 canali, c'ha il frequenzimetro, bellino, un omologato, poi modificato a 200 canali. Senti qualcuno che sia un baracchino. Aspetta che lo attacco un attimo il 48. Ehi, a poi mi dici che antenna hai messo nel camper, Giuseppe. Giuseppe l'ha messo la sonda. Dillo che ce l'ho anche il camper. Quanto è un 27 già? Quella che avevo nella multipla. Anche Eugenio c'ha il camper, mi dice. Ma non come il mio. No, quello di Eugenio è bello, l'ho visto, ce l'ha emasardato, è di quelli nuovi. Anche su Giuseppe è nuovo, anche quello di Giuseppe è bello già. Io non l'ho mai visto, però quello di Eugenio ci sono anche saliti. No, anche quello di Giuseppe non l'ho visto, cioè, quello c'aveva prima era più vecchiotto, ma dove c'è adesso è Giuseppe, un'altra musica, no. Quello che è mio è un Leica nuovo, c'ha poco da fare il tono. Ti costa quello di Giuseppe anche, non so che valore abbia, ma costa. Oh già, dile che io ho un Leica nuovo, che non ce n'è, diglielo, che solo la marca, dile che è un Leica. Giuseppe, capito, ha detto che è un Leica il suo, ma sa dato di qui di grado. No, non è ma sa dato. Di che anno è? Di che anno è oggi? Per nel 2010. Anno 2010. Arrivi basso, avanti già. Prova Giuseppe. No, ti sta uscendo con l'alternata, staccalo che ti fa partire il finale. Sta uscendo con l'alternata, sicuramente le stazionali in quell'apparato lì non le sopporto. No, ma con questo di stazionali è quasi a zero. Boh, sta uscendo, non so se ti sentono così, ma c'hai un'alternata che quasi ti copre la modulazione. Io sto aspettando il sapere del camperauto qua. Aspetta che già te lo dice. Un campetto, ciao Lu. Ciao Lu, buonasera. Chi è? Oh, Giuseppe. Come ti va? Sai quello di Giuseppe 2008, 2010, 2012, se non mi ricordo. Il 2010 è quello di Uccini. Ah, sei bello quello di Giuseppe, l'ho visto, è bello veramente. Ho visto anche l'altro, infatti sono venuto l'altro per prendersi quello. Questo è bello lo stesso. Cavolo. Solo lo sai cosa c'è, che bisogna pagare adesso per campeggiare, è un casino, prima c'era il campeggio libero e potevi andare a tutte le parti, adesso devi pagare. Sì, ma qua non ti puoi preso quel camper qua di giù. Cosa devi pagare? Parcheggio. Che camperà, che fatti dire camperà. Ciao Luca, buonasera. Aspetta, Giuseppe. No, stai scendo sempre con l'alternata. Oh, Luca! Aspetta che sta provando un apparato, sta uscendo con l'alternata Giuseppe, come l'hai staccato, non sia che siano le stazionali che non ti stiano facendo uscire bene. Ciao, qual è WhatsApp? Allora, cambiamo subito bidichino, eccomi qua. Cos'è Giuseppe? Il Magnum? Sì. Vabbè, c'avevo con quel problema là. E più di questo non posso fare, io adesso sono, mi danno il 9 come canale. Vabbè, che è stato in funzione, te ne frega. sicuramente è nato male quel baracchino, dai. Se è arrivata a diventare così vuol dire che è nato male. Guarda, l'unico che ne ha cavato piedi è stato Vittorio per farlo andare, poi ti ripeto, ha girato mezzo mondo. Sì, vabbè, sicuramente è nato male, dai. Oh, mi ha sentito un attimo che sveglia la 25. Oh, Giuseppe, che tipo di camper c'hai, ha detto Eugenio, lui c'ha un Leica del 2010. Io ho un Roller Team su Ford Transit gemellato del 2006. È compiato oggi? Una gran fascia, lascia perdere. Non lo so, io non me ne intendo. Comunque il Leica già lo so che sono buoni. Sono il top. Sono il top. Il Leica sono il top. Sono qua. Vabbè. Ma c'ha un Ford come macchina, c'ha un Ford gemellato. Già ho sentito, un Roller Team gemellato, già ho sentito. Sì, è le 135 cavalli, 6 marce, motore TBCI, va bene, come cosa va bene, ma anche come camper è allestito abbastanza bene. Ma te lo usi anche in città, Giuseppe, oppure usi la macchina per città? Vedi che fa parte Giuseppe, fai parte dei Capolisti Torres. Capolisti Torres. Anch'io. Quando mai non ci siamo mai visti? Ma uscite con loro non più di tanto. Questo, aspetta che ogni tanto stacco, eh. Vabbè, siamo anche visti, ci conosciamo, lo sappiamo, vabbè. Sono conosciuto io dell'ambiente dei campi. Quindi da Nicolino ci parte chi? Sì, ogni volta, ogni sabato domenica sulla Nicolino, quasi ogni sabato domenica. C'ero anche questo fine settimana, scorso, dai. Sì, magari ci conosciamo anche, adesso col baracchino viene un po' male. Vabbè, Eugenio mi chiamo, c'è poco da... ci sono solo io, Perché ce n'è anche un altro con il Laica e il tranviere. Ce n'è un altro con Laica? Con il Laica che fa il tranviere. No, non sono io quello lì, no. Vabbè, avremo maniera di conoscerci di persona, figurati. Certo. Un attimino, Luca, ci sei? Chiamati, guarda WhatsApp. Aspetta un attimo, perché mi ha cambiato la configurazione, non so il perché, il telefono, e non mi fa vedere WhatsApp, aspetta. Occhio, mi assento 2 minuti, provo a sistemare l'antenna meglio. Giuseppe, sta facendo alternate anche con questo, di meno ma ne sta facendo. Oh, che pure è strano. Prova a premere la portata senza parlare. La sentite? Già, ma dice qua che è Petrolesi nella tua antenna, un giro. No, non è Petrolesi, ma è... come si chiama? È tipo quello elettrico, tipo dove si mettono i cabiniti, se ce l'ha presente, un tubo così, in plastica, è in PVC. Esatto. Ah, ho capito, per forza è leggerissima. Ma chi lavora è solo il cavo che c'è dentro, il tubo serve solo per proteggere il cavo e per tenerlo in tira, perché dalla punta si raggiù lo tiene in tira, capito? No, per me non si spetti. No, c'è scritto che resiste fino a 160 km/h. E la Mantova resiste fino a 120. No, ma la Mantova è troppo impegnativa, è troppo pesante, ci vuole un velocetti, no, troppo impegnativa. No, io ho la Mantova, gli ho messo un tubo di quelli telescopici, ce l'ho avuta 17 anni, non è mai brullata. Ma non vi è stata bene, gli ho messo 9 tiranti, però. Vabbè, no, io quando cambierò, io ho tiranti non ne metto. Metto 4 metri di tubo, attaccato a un tubo maestro che è dentro casa, diciamo, là, il tubo dell'antenna, il tubo maestro. Mi ancoro lì e basta. Poi l'antenna mia è leggerissima, questa che ho pesa parecchio. No, questa qua è proprio leggera, mi stai dicendo che Luca, mi te lo fai dire da Luca, l'ha tirata su da solo. No, ma vabbè, ho letto, mi ha preso 3 kg. Allora, Giuseppe. Sì, eccomi, però adesso mi stai arrivando anche tu con un po' di alternata. Oh, strano. Aspetta che probabilmente dipende da te, che ricevi così. Può essere, anzi, sicuramente è. Eugenio, come mi ascolti tu, alternata ciò? Eugi? Dimmi. Ho detto alternata ciò sotto io. Cioè, schiaccia e zitto. No, alternata no, è con il rumore di ventola, ma leggero, leggero però. Sì, la ventola c'è perché è dell'alimentatore, vabbè, comunque no. Deve essere, dipende tutto da lui, perché forse c'è stazionario, gli stanno problemi questi. No, alternata no, assolutamente. Sì, Giuseppe, deve essere da te, dai. Non so che tipo di alimentatore stai usando, se l'alimentatore di quelli giusti, l'alternata dipende dal fatto che tu abbia stazionario, magari. Gai Master circondati. Ehi, amiche, ce ne sono dei due tipi, mi da 5 ottavi di ordinare, non la mezz'onda. La mezz'onda è più scarsa. No, la 5 ottavi. Quella io l'ho pagata a 148 euro più le spese di spedizione, però se tu la paghi con la carta paghi solo 148 euro. E l'ho comprata da Media Globe. Li telefoni e la ordini per telefono, perché lì non c'è. Devi telefonare a Media Globe, prendi il numero e li telefoni. Vabbè, qua cosa 145 senza le spese di spedizione. La circostanza, 1000 fatti. Sì, 500, allora, 500 continue e 1000 alternativamente, che non devi stare sempre con 1000 volte attaccati, praticamente sono asciutto. Vabbè, però già in questa qua, la scatola, c'è l'antenna rivolta verso il cielo, una cosa del genere. Sì, è già questa. Poi basta leggere Game Master 5 ottavi, devi prendere. Sirio Game Master, antenna CB5 ottavi. Esatto, però c'è anche un'altra casa che le fa, ed è la Sigma, io non mi sono fidato, perché quella Game Master ne ho sentito parlare da tanti, invece questa della Sigma no. Vabbè, qua c'è, non è Sigma, è... Visto, è già. Eia. Sirio. Hai visto quel binario? Se mi è piaciuto per un secondo, però. È il binario, visto là. Eia. Bello. E chi è? Tu. Oh yeah. Yeah. Andavè. Ehi, ma comunque Trapasso sta guadagnando un bel a questi campini. Non da me, non ci preoccupa. No. Dove l'hai preso tu, Eugenio? Cosa già? No, Eugenio sto dicendo, dove l'hai preso il caffè? No, ho preso a Trapasso, però il mio non ha necessità di... non mi ha mai richiesto niente, dai. Ah, perché avendolo lì vicino non penso di aver preso da altre parti. O poi non ne conosco altri che venne, sinceramente, vabbè, non mi sono mai informato. C'è Angelo che mi fa il staccato con il camper. C'è a Ottava, c'è a Cagliari, c'è a Sisto, mi sa tanto. E ce ne sono qua. Oh già. Vabbè, comunque qua mi dice che pesa 3 kg. Sì, è 2 kg e mezzo, 3 kg, tanto lì che mi ricordavo. Dimmi, a molti, questo tipo stava dando fuoco alla ragazza, la benzina. A molti? Sì. Certo. E ogni tanto si nasce uno pazzo, cazzo, ma è quello che ha sparato al bar, non l'hai sentito? Cagliarità. È passato, ha abbassato il finestrino della macchina e ha sparato dentro il bar. Lo sai perché? Perché la ragazza lavorava in quel bar e lui era geloso e gli aveva chiesto al principale di licenziarla perché non voleva che lavorassi. E il principale invece non l'ha licenziata, ma per dargli una lezione ha preso la pistola, ha sparato l'uovo e il culo. Lo so, però l'ho sentito al telegiornale. La gente sta uscendo di testa, non c'è poco da fidarsi. Oh yeah. Quello che mi sta facendo temere è questo virus che c'è in Cina, ragazzi. Se vengono qua ci portano queste malattie anche qui. Ma cosa? Hanno già trovato l'antidoto. Ma quanta gente c'è già contaminata? Grazie, non sono spaventato io per il lavoro che faccio. E si è spaventato tu. E tu perché cosa c'è a che fare con i cinesi? Io vado nei negozi cinesi, ma cosa stai dicendo? Scusa, a che fare con i cinesi? Anche con i cinesi ho a che fare. Cinesi, turchi, egiziani, di tutto. Bla bla bla, ma tu sei dentro il camion, gattito. Sì. Ma non lavori oggi? Sono già uscito. E oggi ero in una nave. Croato, oggi ero una nave anche di Croato, all'Egitto. Ah, ma la crociera? No, la carico. Ho capito. Andava. E non ce n'erano donne? No, già. Solo uomini. Ah, però non ci piacciono. Giuseppe non sta parlando. Andiamo per il chiesto. Ehi, ma a parte gli scherzi, cazzo, vengono qua, magari che c'hanno il virus e contatti. Riuscite a sentirmi? Forte e chiaro. Adesso la tua radio è pulita. E anche la tua. Cosa hai fatto? Ho spostato il filo perché un po' ne avevo dietro la parete dello studio. No, non la devi lasciare attorcigliato, perché ti cambia l'impedenza. Devi mollarlo tutto quanto, devi cercare di metterlo in fila bene. E adesso stai uscendo limpido anche tu. Sì, vedremo di cavarne i piedi. E bene o male, magari con una boomerang avresti potuto regolare stazionare, perché c'è lo stupo sopra e girando lo stupo del regolo, ma quella lì è fissa. E bisogna inquadrare anche la lunghezza giusta del cavo. Io guarda, ne ho preso 25 metri di cavo, la giù su, addirittura mi chiedi la lunga, sopra l'abbiamo anche attorcigliato che non si fa, però l'abbiamo attorcigliato perché ne è avanzato, lo dobbiamo scendere tutto giù e poi tagliare la misura e basta quel cavo lì. E adesso vediamo piano, dai. Qua arrivi bene, qua c'è una bomboletta. Oh già, quando lo puoi fare? Si taglia troppo più giù e ti fai nuovo il PL e sei a posto. Come vuoi fare? Come lui? Ah già, mi sto dicendo, lo può anche fare se vuole. E oramai ho tutto fissato nel muro, ho messo le fascette, tutto tanto, e lascialo così, già va bene lo stesso. Per sempre che vada bene. Ah vabbè, certo. No, qua già mi va bene, ma siamo ad un più di schioppo a casa mia, a casa sua. Io. Che vuoi dicendo? Eugenio, e tu stai uscendo, Eugenio? Sto uscendo con cosa? Con il camper. Sì, ero fuori anche il sabato pubblico scorso. E dove sei andato di qui? Ma ero a Punta Malagnani, alla Ciaccia. Ah, ci l'ha cattensato? Ehi, ciao, no, c'è la Valeluglia. Sì, Valeluglia ha cattensato quella zona là. Ho capito. Dice la San Pietro a mare, tutta questa zona là. Ho capito, lì forse è l'unico campeggio libero che c'è. Ma è un campeggio libero, si paga 15 euro, ti hanno carico, corrente, insomma si sta bene. Al giorno, 15 euro. Ehi, tranquillo, cioè, fai quello che vuoi, barbecue, fai quello che vuoi. E sta bene, sii tranquillo. Eh beh certo, e quando uno è in campo deve avere anche la tranquillità. Ma mi sa che i liberi ce ne sono pochi adesso, confermi Giuseppe. Ma guarda, io per non sbagliare quest'estate ho preso armi e bagagli e ne sono andato a Genova, mi sono visto l'acquario, ho fatto tutto il giro e ho imbarcato da Livorno. Ah che bello l'acquario di Genova, l'ho visto anche io, come bello Ci sono offerte molte volte in attraversata in nave andata e ritorno col camper. Ah, vabbè, ho fatto una cosa buona, almeno ti è pagato l'albergo. Sì, ma infatti per solo per dormire che spendi un casino di soldi. E allora, che te vogliono anche 200-250 euro a notte secondo il albergo va. Ci siamo girati un po' tutta la costa, Portofino, Massa, Carrara, Pisa, siamo stati un giorno. Anche io l'ho fatta tutta quella zona. E poi un anno sono andato, ho fatto Sirmione, Verona, Peschiera del Garda, sono stato sul lago di Garda, troppo bella quella zona. Sì, ci sono posti bellissimi. Quello è un Portocervo del continente, addirittura le macchine di a semaforo devi spegnere il motore, lo sai, non si può lasciare il motore acceso. Tranquillamente, ci posso credere. Vabbè, adesso fanno, io l'altro giorno che ho portato la macchina per il tagliando, mi hanno dato la Jeep, quella nuova, e quando tu metti in folle si spegne il motore, poi premi la frizione e si riaccende, da solo così. Oggi mi sembra sovramodulato. Ho detto, anche la mia è così, quello c'era un po', è già vecchio quel programma lì, si chiama Start and Stop. Ehi, ehi, vabbè, io nella macchina mia, ma quando si muova non ce l'ho quel comando lì. Oh, uno o due dB in più delle altre, che corrispondono al 26 fino al 58% di segnali in più come risultato. Ehi, oggi te l'ho detto anche ieri. Se poi vai nel forum non leggi che cosa ti scrivono, che l'antenna è perfetta, che va bene, che anche in lontananza, anzi non si vede tanto in vicinanza, quanto in lontananza, perché spara un bel lontano. È un dipolo praticamente. Dipolo verticale. Sì, lo stavo leggendo, un dipolo verticale, sì. Io ce l'ho da poco, però posso già consigliarla, perché mi date già delle soddisfazioni di grande. Poi adesso vediamo in lontananza come va. Ci stava benissimo, tutti mi hanno dato che Massimiliano mette che mi sente più forte, Claudio lo stesso, cose, quasi tutti mi sentono più forti. No, ti ripeto, te lo posso confermare anch'io, di lusso. A saperlo prima mi sono preso questo, che c'è questo acquario che sto operando. Oggi è un'antenna nuova questa qua, dai. È un'antenna che è stata progettata al computer sui minimi particolari, quindi ci sono ingegneri che l'hanno progettata, non sono qua. Poi il mozzo che c'è dove attacca tutto è tutto ben fatto, dove c'è l'attacco del PL, tutto qua tutto ben fatto. Ma il PL è all'aggancio sotto la carica, diciamo? Sì, sotto c'è la sì. È quasi nascosto l'attacco del PL. Rimane protetto, capito? Anche se va vulcanizzato, io l'ho vulcanizzato, tutto vulcanizzato dove c'è il piede. Già ho capito, già l'ho visto. Sì, non ti scatta te convinti di minimumi. Come? Ho detto a convincerti, ce ne vuole. No, non è quello. A me mi è venuta a 170 euro con le spese di spedizione, costava 148 euro, però io l'ho vista prima, era quasi 200 euro costava. Guarda, sto guardando adesso, su Media Drop, senza scontato, 145 euro. Sta diminuita adesso. Prezzo scontato 145, invece il prezzo finito era 155 euro. Pigliala subito a quel prezzo. Tanto guarda, anche se non la piazzi subito, è una scatola lunga e te la metti a qualsiasi parte. Sì, vabbè, ma io problemi di spazio non ne ho. E allora è fatto il gioco, avanti. Sì, eccomi qua. Niente, ho riprovato il 48, però è peggio di prima, ma sicuramente il microfono. Ma non è che dipende da come era sempre posizionata l'antenna, perché te lo faceva anche con l'altro, capito? Di meno, però te lo faceva. Senti un po' adesso. Prova senza modulare. E leggero però te lo fa. Eppure le cose buone, il switching, il power supply, l'ultimo che avevo preso di alimentatore. No, ma non penso che sia l'alimentatore, io penso che sia proprio l'antenna che non sta irradiando come si deve. Può essere, sì. Probabilmente c'è qualche ostacolo e non la fa irradiare bene, sono dietro le onde. Vedi un po' come arrivo adesso. Prova a fare un passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 6, 9, 25, dai. Eppure l'ho abbassato adesso come potenza. Ha aumentato anche da me. Adesso è 0,8. Quasi 1, là. Lo so. Ma Giuseppe usciva bene in prima, quando c'è l'antenna su te, adesso ha cambiato casa e non gli devo far mettere la musica, no? Ce l'aveva l'antenna. qua con la mantova che avevo io sicuramente uscivo benissimo. Quella è zona buona, per il mare è tutta la zona libera, la zona del mare ce l'è tutta libera lì come me. Io sono arrivato accompagnando il Gigi Vulcano all'Isola Rossa. Adesso sei arrivato a 7, però la radio è più forte. Adesso sei da 7, eri attaccato prima. Adesso sei un bel forte di radio, molto più forte di prima. Prima eri forte, adesso di più. Adesso sei arrivato a 9:15. Però c'è sempre quel rumorio, così fa. Beh, mi senti? Oh, mi sentite? Ehi, al... Dai, io chiudo che sto uscendo. Ciao Giuseppe, ciao Gianni, salutami Eugenio già. Giuseppe, comunque sei molto più basso, C'è il segnale 2 da me. Ciao, alla prossima. Va bene, dai, buon divertimento. Non sai cosa c'è, Giuseppe, che qua sei vicino, quindi io ti ricevo con un segnale forte, poi magari lontano ti ricevono di meno, capito? Vedi, adesso ha aumentato la cosa dello switch, perché non ha ancora regolato il switch. Ma adesso c'è questa trombettina, così fa. E oggi? Oh. Ordinata te l'hai? No, ancora non. Ho aspettato bene questo qua. Oh, Luca, esci da fuori un attimo. Luca è uscito, Luca è andato via, se ne sta uscendo con la ragazza. Poco fa è entrato, ha fatto un passaggio veloce, Luca Foggio. Ma Luca è portatore, sì, da buon anno. E voi non avete sentito, già ho sentito, ha fatto un passaggio veloce. E poi non sta più parlando, ma già lo so che sta ascoltando, la matta viene scelta. Ti correggo, si chiama Tulipano, non Foggio. Per gli amici è Foggio. Ah, per gli amici, io lo conto come Tulipano. E il nome gli hanno messo la Bonaima e Giampaolo. Foggio e Foggio è, punto e basta. Attenzione Luca, ci sei. Entra, non manca salutare. Entra, non è. Va bene già, io ti saluto che vado a far muovere le mandibole, vai, ho fatto. Ciao, ciao a tutti, ciao anche all'amico camperista lì. Ma è l'ex poliziotto, lui sì, no? No, Giuseppe non è poliziotto. Giuseppe è un ex camionista, perché se lavora in ufficio. Ah, ex camionista. Ecco che dica. Non lo so, non me lo ricordo di dittare. Giuseppe, Eugenio chiede con che ditta lavori. Hai capito? Lavora in viale Porto Torres, quella ditta che porta i vetri, dai, che c'ha, che fa i tagli i vetri e li porta a destinazione. Ah, ma non imbarca i traditi, no? Ma non penso, no, qualche volta è già andato fuori, vero Giuseppe? Adesso non sta più guidando, capito? Ma dico, non fa i colacchi, dai. No, c'è il camion con la gruccia. Ah, non ho capito. Vabbè, dai, io vi saluto di nuovo, che vado a far muovere le mandibole. Ciao a tutti, ciao, a domani, ci sentiamo, ciao. Ciao Eugenio, ciao. Oh, yeah. Che ore sono? Adesso controllo. Le 8:20, già guarda tutto, le 8:20. Perché alle 8:20 devo dare l'antibiotico al cane. C'è una bella fretta. Cosa? Che domani alla Expo c'è una bella fretta. Ci fanno un sacco di camper, diglielo. Hai copiato Giuseppe? Passo passo. E ha detto che alla Expo c'è una bella festa, che vanno tutti i camperisti. Vediamo, secondo come mi alzo domani. Ma non so, che festa c'è? La prima di estate. È la prima. No, è la cuta, qualche circolo si è aperta, già, capito? Cioè, abbiamo, il comune ci dà il parcheggio privato, capito? C'è un'area posta solo per il campo. Ah, è buono, dai. Capito, Giuseppe, non c'è manco problemi di parcheggio, il comune ha messo a disposizione. disposizione il parcheggio per il camper. Guarda, io usavo anche il pannello solare sopra, quindi hai voglia. E quindi, andate. Quando uno è in camper si fa una bella giornata, parte al venerdì e ritorna domenica sera e se ne sta in giro almeno. Va bene signori, vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao Luigi. Ciao Luigi, ci sentiamo presto. Dammi un minuto che mi sono fatto un po' di più. Cosa ha detto? No, sono minuti che ci stanno lontano. Ciao, ciao, ciao. Ciao Eugenio, ciao. Prenditi la Game Master, eh. La prossima volta ti voglio sentire con la Game Master. Ehi, ehi, ciao, ciao. Ciao. Oh, vediamo un po' adesso. Oh Giuseppe, devo lasciare, sono al telefono, dai, ci sentiamo magari in un altro momento. Scusami che sono al telefono. Cappa, tranquillo. Ciao, buona serata, ciao. Ciao, ciao.